costituito da Anna Laiolo, Guido Lombardi e Alfredo Leonardi. Tutti e tre provenivano dall'ambiente del cinema underground, il cosiddetto cinema underground italiani della seconda metà degli anni 60, e come alcuni altri, ma in maniera più forte, più determinata e più decisa, abbandonarono l'avanguardia, diciamo così, subito dopo il 68, per immergersi in un contesto di lotte che richiesto ad alcuni artisti di cambiare completamente modo di lavorare. Proprio per questo hanno creato un collettivo, perché dopo il 68 si metteva in dubbio e si criticava la figura dell'intellettuale, dell'artista separato, diciamo così, quindi annullano l'autore per lavorare insieme, e quindi come negazione dell'ego d'artista, condividendo il lavoro su tutti i piani, essendo intercambiabili, e confrontando tra loro criticamente i contenuti, e anche in relazione ai contesti di lotta con cui entravano in relazione. Il grande cambiamento di Videobase è proprio quando passano dalla pellicola al video. Loro sono stati tra i primi, infatti questo video che vedremo stasera al Forte Carcere Italia del 73, a utilizzare questo mezzo, arrivato da poco in Italia. I primi eventi, diciamo, sono del 68 in campo videoartistico, e loro nel 73 realizzano per una mostra d'arte contemporanea che si intitola proprio Contemporanea, tre video che sono Policlinica e Lotta, Carcere in Italia e Quartieri Popolari. Come si può capire da questi tre titoli, sono proprio tre ambiti di lotta molto forti in quel momento, sono le lotte per i bisogni primari, per la casa. Quartieri Popolari è ambientato tra Prima Valle, Ostia e Magliana. Poi Carcere in Italia sulla questione delle carceri, e Policlinica in Lotta per la lotta dei lavoratori e lavoratrici del Policlinico per la trasformazione del loro contratto. Sì. Carcere in Italia, rispetto agli altri due, ha un elemento di interesse particolare, perché mentre gli altri utilizzavano una cosa che era la grande novità del video di quel momento, perché bisogna sempre considerare che parliamo dei primi anni 70, cioè la possibilità di registrare subito audio e video contemporaneamente e di poterlo subito anche rivedere, di avere la possibilità anche di girare per lungo tempo, perché le bobine duravano quasi 30 minuti rispetto ai 10 di qualsiasi caricatore di una 16 mm. Queste grandi novità del video, che autori consapevoli come gli autori di Videobase hanno sfruttato al massimo, invece in carcere non viene utilizzato tanto, se non per la durata, perché è più un film saggio sulla situazione carceraria in Italia in quel momento, cioè una fotografia che copre sia la situazione delle carceri maschili, femminili, le famiglie che stanno fuori, la situazione di chi esce dopo, quindi il rifiuto sociale dell'ex galeotto, e soprattutto del rapporto tra comuni e politici, tra prigionieri comuni e politici all'interno delle carceri. E quindi è una disamina molto ampia, estremamente sobria e corretta di quello della situazione carceraria in Italia nel 73. Sì, quindi l'innovazione parte dall'utilizzo dello strumento del linguaggio video come strumento non più soltanto artistico, diciamo, come si era sviluppato all'inizio. Ma guarda, in realtà il video è subito stato sentito anche per gli artisti come uno strumento di avvicinamento al reale, proprio perché e rispetto al cinema aveva questa possibilità di avere video e audio insieme, e quindi in quel momento era uno strumento che poteva che permetteva una verità, tra virgolette, sempre un'aderenza al reale che il cinema non aveva mai permesso. Gli artisti, nella povertà che il mezzo tra l'altro aveva, perché il video in quel periodo era veramente di livello elementare, non si poteva montare, non si poteva fare effetti, non si poteva fare niente, gli artisti lo utilizzavano per fondamentalmente per documentare performance, era quello l'uso artistico. Il vero uso artistico entrerà, diciamo, agli anni 80, quando arriveranno le prime centraline di montaggio e si potrà iniziare a lavorare davvero con il linguaggio. Però l'elemento fondante del video è il fatto della durata, del processo, di un continuum che ti permette, questo quando volevi documentare delle lotte e far parlare i veri protagonisti delle lotte era fondamentale, e gli artisti, cioè dei cineasti come Laiolo, Lombardi e Leonardi avevano la consapevolezza di usare un nuovo strumento per documentare una nuova realtà, che era la realtà delle lotte di quel periodo. Sì, quindi uno strumento, un nuovo linguaggio da esplorare per una cioè con l'obiettivo di trasformare anche da un punto di vista politico la società, per di denuncia, di controinformazione per chi utilizza questo mezzo. Sì, tra l'altro nel video, che era anche vissuto come la possibilità di produrre televisione dal basso, sì. Prendere in mano lo strumento televisivo, che è uno strumento del potere, uno strumento del sistema unidirezionale, e invece in questo modo utilizzare lo strumento televisivo, cioè il video, permetteva di capovolgere la posizione. Da un lato era produrre controinformazione e quindi poter far girare delle immagini e dei discorsi che non sarebbero mai fatti girare, non sarebbero mai esistiti se non prodotti dal basso, ma soprattutto quello che secondo me è interessante è la possibilità che questo strumento dava all'autorappresentazione. Per la prima volta persone che non avevano mai avuto diritto d'espressione, diritto di voce, diritto d'esistenza in immagine, acquisiscono la possibilità di parlare con la loro voce, di parlare con il loro linguaggio nei momenti di presa di coscienza, consapevolezza e lotta. Sì. E questo si sviluppa sempre di più, soprattutto a partire dalla metà degli anni 60, dapprima negli Stati Uniti e poi in Europa. Sì, no, infatti diciamo che ovviamente gli americani, avendo a disposizione più soldi, hanno avuto accesso prima e meglio, meglio nel senso di con maggiore forza a questi strumenti. Gli italiani un po' meno. Bisogna dire che in quegli anni lì, cioè parliamo dei primi anni 70, c'era un grande entusiasmo rispetto al video, ma era anche molto difficile utilizzarlo perché era un po' costoso, aveva necessità tecniche non indifferenti e non era così diffuso. Soprattutto un problema che aveva era poi la diffusione successiva, perché negli anni 70 quello che era il problema principale del cinema militante, del video militante di quel periodo, è la distribuzione, perché non esistevano delle reti, ma erano delle piccole reti, anche abbastanza informali, di luoghi per la distribuzione, diciamo così. Tant'è vero che l'attività di video base dura fino al 78, diciamo così, e poi però viene meno, perché viene meno pure vengono meno i soggetti sociali con cui loro collaboravano, che erano i comitati di lotta per la casa, che erano i comitati politici, che erano i comitati degli operai, eccetera, eccetera. Quindi comunque dopo un periodo che è stato molto ricco in cui il video ha portato dei contenuti relativi alle lotte sociali, contenuti didattici in un qualche modo e anche documentativi della realtà che stavano descrivendo, si passa poi a un storicamente a una progressiva diminuzione dovuta soprattutto ai mezzi. E quindi ci dicevi, il video di questa sera invece costituisce una dei primi lavori in cui vengono sperimentate appieno le potenzialità linguistiche di questo mezzo di comunicazione da parte del collettivo del 71. Sì, sicuramente Cartoon Italia è una delle rare espressioni in cui il video viene piegato e utilizzato come strumento di analisi, in cui una delle grandi caratteristiche, delle novità che adesso per il pubblico normale è un orrore, cioè la durata, perché noi adesso siamo abituati a un montaggio serratissimo, pregnante, tutto immediato, tutto concentrato, tutto super sintetico. Negli anni 70 la vera novità, il vero gusto era finalmente avere dei tempi lunghi no? In cui la riflessione, in cui la possibilità di permettere a qualcuno di esprimersi appieno in tutta la sua ampiezza, insomma, del discorso, era un grande risultato, una grande novità. Quindi anche in Carcere in Italia. Ti sentiamo di meno adesso. Okay. Ecco, adesso va meglio. Ok. In Cartoon Italia il video viene adesso utilizzato proprio per realizzare un'analisi che Videobase ha fatto insieme a dei comitati che lottavano e si occupavano della situazione carceraria, che infatti sono anche all'interno del video e parlano all'interno del video. La cosa interessante è che parlano di Rebibbia. Sì. Femminile e maschile, e poi soprattutto ci sono le immagini, che secondo me è molto interessante, della rivolta di Regina Coeli di quell'anno e del sostegno e solidarietà che le compagne davano dal Giannicolo a chi stava dentro e rivolta. Aspetta. Mi senti? Sì. Perché ricordiamo che in quegli anni dentro le carceri, diciamo, la situazione era abbastanza differente da quella di oggi, diciamo, si svolgevano anche molte più lotte rispetto, sì, penso, all'oggi. Il carcere pre-riforma, da quello che io so, c'erano tantissime rivolte, sia per esempio si parla di rivolte a Regina Coeli, ma anche a Rebibbia femminile, sì. E anche in altre città d'Italia, da quello che mi risulta, insomma. E quindi appunto questa testimonianza, diciamo, di queste lotte, insomma, fatte anche all'interno dei carceri ai tempi di oggi risulta molto importante, insomma, anche per dare uno sguardo al carcere oggi e vedere anche le differenze, diciamo, che si sono che hanno cambiato il volto, diciamo, un po' del carcere in questi ultimi anni, insomma, rendendolo più uno strumento, diciamo, di controllo ancora più stretto di quello che era prima, insomma. Sì, anche se probabilmente si vedranno molte similarità nel senso. Sì, beh, il carcere poi in effetti fondamentalmente non cambia nella sua, diciamo, struttura fondamentale, che è quella di tenere rinchiuse le persone. Sì, infatti. D'accordo, io credo che, non so se vuoi aggiungere dell'altro. No, mi sembra di avervi ti ringraziamo molto per l'illustrazione, insomma, di questa di quello che è il video che andremo a vedere stasera, e ci vediamo alle 20 al Forte Prenestino in via del Pino, ok? Va bene, a stasera allora. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao.